La bicicletta volante. C'era una volta un povero ragazzo di nome Allen che viveva in un piccolo villaggio. Suo padre vendeva fieno per guadagnarsi da vivere, per nutrire la famiglia e mandare Allen a scuola. Allen doveva camminare un miglio ogni giorno per andare a scuola. I suoi compagni di classe avevano le loro biciclette e prendevano sempre in giro il povero Allen. Ehi, Allen, non ti fanno male i piedi a camminare così tanto? Forse si sta allenando per la maratona. Dobbiamo chiamarlo Mister Due Piedi Niente Bici. Sì, questo è Mister Due Piedi Niente Bici. Allen si arrabbiò molto per le parole dei suoi compagni. Quindi andò dai suoi genitori e chiese: tutti i miei amici vanno a scuola in bici, anch'io voglio la mia bicicletta. Allen, non abbiamo i soldi per una bicicletta, figliolo. Puoi aspettare ancora qualche mese, per favore? Mi dispiace di essere così esigente, padre. Non voglio una bicicletta, sono felice di andare a scuola a piedi. Quella notte, mentre Allen dormiva, i suoi genitori presero una decisione. Allen è uno dei pochi ragazzi del villaggio a non avere una bicicletta. Povero bambino, viene preso in giro da tutti. E guarda quanto è sensibile nostro figlio. Quando gli ho detto che non potevamo permettercene una, ha accettato subito di continuare ad andare a scuola camminando. Devo procurargli una bicicletta, in qualsiasi modo. Prendi questa e vendila. Maria! A che serve una collana? Una bicicletta sarà utile per Allen e per te. Quindi, il padre di Allen vendette la collana e comprò ad Allen una vecchia bicicletta. Allen era felicissimo. Ora andava a scuola in bicicletta tutti i giorni. Un giorno, mentre stava tornando, la catena della vecchia bicicletta si spezzò. Allen scese dalla bici per cercare di aggiustarla, quando improvvisamente sentì un rumore provenire dal lago. Aiuto! Aiuto! Allen vide che qualcuno stava annegando nel lago. Corse verso il lago e saltò in acqua per salvarlo. Grazie mille, ragazzo! Mi hai salvato la vita! Ho fatto solo quello che chiunque avrebbe fatto. Non devi ringraziarmi. C'è qualcosa che posso fare per te? Per favore, lascia che ti aiuti. In questo momento la mia bici è rotta. Ah, quella? Vorresti una bici nuova di zecca che vola? Posso farti una bici volante? Il mago toccò la bici e delle ali spuntarono da essa e si trasformò in una bici nuova di zecca. Il mago avvertì Allen: finché rimarrai bravo e gentile come sei, la bici rimarrà così. Ma se diventerai egoista, le ali scompariranno e la tua bicicletta tornerà di nuovo quella vecchia. Allen portò felicemente la bicicletta a casa e raccontò tutto ai suoi genitori. Ora, mentre gli altri bambini pedalavano sulla strada, Allen volava a scuola ogni giorno. Guarda, ecco Allen! Vorrei avere una bici volante. Che fortuna, Allen! Ovunque Allen andasse, la gente lo guardava meravigliata e ammirata. Presto, Allen iniziò a sentirsi molto speciale e divenne scortese e arrogante, solo perché aveva una bici volante. Padre! Oggi non hai scuola, quindi andrò con la bici nei campi per tagliare un po' di fieno. No, padre, non portare la mia bella bicicletta nei campi sporchi e fangosi. Iu! Allen? Questa è la mia bicicletta, va bene? Il mago me l'ha data e non permetterò a nessun altro di usarla. Ehi, Ben, che cosa c'è? Non hai una bicicletta? Vedi? Io ne ho una volante. Un mago è rimasto colpito dal mio comportamento e mi ha dato questa come regalo di ringraziamento. Appena Allen ebbe pronunciato queste parole meschine, la bicicletta perse le ali, divenne vecchia di nuovo e cadde a terra. Tutti i bambini iniziarono a ridere di lui. Ben andò da lui e lo aiutò a rialzarsi. Stai bene? Il mago aveva detto... Ellen si era ora reso conto di essere diventato cattivo, maleducato ed egoista. Questo è il motivo per cui la sua bici era tornata vecchia, se lo meritava. Andò a casa, riparò la bici e lo disse a suo padre. Allen? Mi dispiace tanto, padre. Sono stato così scortese con te. Tu mi hai comprato la bicicletta e io ti ho impedito di usarla. Come ho potuto farlo? Ora l'ho riparata. Portala tutti i giorni nei campi e io andrò a scuola a piedi. Non mi lamenterò mai più, lo prometto. Quindi, da quel giorno, Ellen iniziò di nuovo a camminare a scuola. Lui e Ben divennero buoni amici. Poi, un giorno, dopo molti mesi, Ellen trovò una bicicletta, la stessa che il mago gli aveva regalato, alla sua porta. Ellen lasciò che suo padre la usasse e lui invece iniziò ad andare a scuola con quella vecchia. Ma questa volta portava Ben con sé ogni giorno. Non abbiamo il diritto di essere scortesi solo perché le cose che abbiamo sono migliori di quelle degli altri. Dobbiamo essere sempre grati e rispettosi con tutti.